Augusto, non hai niente. Niente. Allora che devi? Che mi gira tutto a me. Mi gira tutto. Forse il problema è qua. Roba di qua. Non è cose che si risolvono con due schiaffoni, eh. Io c'ho paura, Duccio. Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè? Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada. Tu non lo leggi? Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto. Manca il Corriere dello Sport, posso leggere? Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio. Chiuditi. Tabula rasa. Una trasmissione di lettori per lettori. Tutti i lunedì dalle 21 alle 22 su Radio Onda Rossa. Chiuditi a riccio. La sigla di Entropia Massima. Sì, un effetto delay come l'eco di qualche minuto fa. Buonasera Cristina. Allora, finalmente abbiamo ripristinato la sigla con tutto che quello che fa la trasmissione dell'altro è Cibo e Rotta, l'ha cancellata pur di mandare solo la sua voce. Non campiamo i rimpianti, invece andiamo a dire buonasera a chi ci ascolta. Sono ciao. E 11. Adesso ci sono pure i microfoni nuovi. Ma senti come tu, guarda il mio come sta. Ah, ok. Io sarei mangiato il sorcio, come si dice, non puoi vedere, ma la spugna quella copri il microfono ha un buco proprio da forma di bocca di topo, diciamo così. Comunque, se non descriviamo i microfoni della radio, invece andiamo a parlare appunto di tabula rasa. Torniamo dopo un paio di settimane, compresa la pausa pasquale. Vabbè, questa non si può sentire, mi sembrava... Era Pasquale. Sì, era Pasquale, ma in mezzo c'è sempre quella cosa per cui voi volete sempre fare solo quello e mai questo. Vabbè, comunque, noi sorvoliamo. Due libri oggi ci abbiamo, e per una nostra particolare cosa che non c'era mai successo, una prima intervista andrà registrata, perché sì, l'abbiamo registrata. Da ore. A lavorare per voi e per noi. Il primo libro che andremo a presentare, anche se... avrete questo privilegio di sentirci registrati. Molto strano registrarsi, sì, la prima volta che lo facciamo insieme. Un libro di Fulvio Massarelli che abbiamo sentito in collegamento telefonico un paio di ore fa da Bologna. Il libro si chiama La collera della Casbah, voci di rivoluzione da Tunisi, ed è edito da Agenzia X, casa editrice che comunque qui a Tabula Rasa conosciamo abbastanza bene. Poi, dopo andremo a Parigi. Andremo a Parigi da un punto di vista telefonico, ma da un punto di vista narrativo invece andiamo a Bari. Saremo a Bari con Alessandro Tota, che è di Bari, ma appunto, guarda un po', abita come a Parigi. Sei come il tuo sindaco? Come? Come il tuo sindaco. Oh signore mio, De Bari, sì, mamma De Bari. Mia. Non poteva trasferirsi a Parigi invece che a Roma, e qui veniva Alessandro Tota, che non conosco, ma a giudicare da Fratelli, il suo libro a fumetti, edito da Coconino Press Fandango, sicuramente la persona ben migliore di Gnagni, ma questa è una storia che andremo a vedere più avanti, intorno alle 21.30, invece adesso andiamo... E ci ascoltiamo subito in registrata questi, diciamo, 20 minuti di chiacchierata su questo libro, insomma, molto bello di interviste, che parla appunto della Tunisia e della rivoluzione che c'è stata. Voci dalla Tunisia in rivolta. Buon ascolto, ci sentiamo fra 20 minuti. Siamo in collegamento con Fulvio per presentare il suo libro, con Fulvio Massarelli. Il libro è La collera della Casbah, edito da Agenzia X, voci di rivoluzione da Tunisi. Allora, la prima cosa che ci viene da chiederti è, ovviamente, insomma, questo libro è una raccolta di testimonianze. E come ti sei trovato a raccogliere questi personaggi, che sono tutti particolari, poi insomma li racconteremo meglio, e quindi come ti sei trovato in un momento storico particolare, quindi della cacciata di Ben Ali, subito dopo la cacciata di Ben Ali in Tunisia, e quindi come hai trovato, insomma, questi personaggi che raccontano molto bene, insomma, secondo me, la rivoluzione tunisina. Ma io, dai primi momenti in cui a Sidi Bouzid sono scoppiate le prime rivolte, sono stato in contatto continuo un po' con compagni e compagne, giornalisti che comunque facevano parte di quella che era l'opposizione più o meno clandestina al regime di Ben Ali, quindi ho cercato di seguire fin dall'inizio in una maniera più attenta e documentata possibile lo sviluppo, insomma, del movimento rivoluzionario tunisino. Poi, non appena scappato Ben Ali, ho preso il primo aereo per Tunisi e mi sono ritrovato per le strade sia di Tunisi ma poi anche per altre città della Tunisia per cercare di capire realmente cosa stava succedendo, perché comunque i segnali che mi arrivavano dalla Tunisia stando qua in Italia era che qualcosa di veramente straordinario si stava producendo in quel paese. Io ci avevo vissuto per un bel po' di tempo e quando mi ho ritrovato davanti le immagini di la grandissima manifestazione del 14 gennaio che poi riuscirà a far scappare Ben Ali dal paese, a farlo fuggire, ecco, quella grande manifestazione davanti al Ministero degli Interni mi aveva veramente stupefatto, perché conoscevo molto bene le tecniche repressive di controllo che la polizia, che lo Stato di polizia metteva in campo contro ogni forma di dissenso. Ecco, quindi insomma, non appena Ben Ali scappa, riesco ad arrivare a Tunisi, mi trovo in una situazione ad altissima tensione, perché come si leggerà poi nel libro, non è che una volta scappato Ben Ali tutto si era risolto, anzi, come dicono tantissimi ragazzi e compagni militanti intervistati, lo slogan era quello: non è che l'inizio. Ecco, quindi mi sono ritrovato in questo contesto veramente ad alta tensione. C'erano i tentativi di conquista della prima, della seconda casba, che è stato questo straordinario presidio di massa durato giorni e giorni, insomma una prima allusione a quelle che poi saranno anche le accampate spagnole, se vogliamo, Occupy Wall Street o Piazza Tahrir in Egitto. Ecco, in quel contesto ho iniziato a intervistare, a confrontarmi con i più diversi soggetti, sia sociali che magari tantissimi ragazzi, ragazze, uomini e donne, che venivano anche da esperienze culturali e politiche le più diverse, per cercare di comprendere meglio quello che si stava riproducendo, specialmente alla Casba, che come dicevo prima è stata una proprio delle prime esperienze di questo 2011 che poi ha fatto riempire le piazze indignate o arrabbiate di mezzo mondo. Allora Fulvio, sicuramente tu dici giustamente che la rivolta, la rivoluzione tunisina e penso anche a quella egiziana ha costituito una sorta di miccia che poi ha consentito di defragrare alle diverse proteste sia in quell'area geografica ma anche, appunto, tu citavi la Spagna, citavi gli Stati Uniti e così via. Rispetto a quella che è stata in quei giorni soprattutto la rappresentazione mediatica mainstream europea, e questo nel tuo libro, nelle storie che, a cui dai voce, esce fuori, ci fu ai tempi ma c'è ancora rispetto a questi movimenti quest'icona della rivolta di Facebook, no? Della rivolta del social network. La cosa che ho apprezzato moltissimo al tuo libro che esce fuori è il fatto che in realtà, appunto, si vede come quella era una cornice assolutamente europea e forse anche strumentale a rappresentare qualcosa di neutrale. Quello che ti volevo chiedere, tu dai voce a diversi rappresentanti di diverse parti della società tunisina, ci spieghi un attimo, da quello che hai potuto vedere te anche giorno per giorno, qual è stata effettivamente l'importanza della, più che dei social network, della rete e quindi dell'elemento tecnologico, diciamo, rispetto alla possibilità di far defragare una protesta che evidentemente era sopita da vent'anni, cioè c'era ma era sotto traccia. A un certo punto succede qualcosa sia a livello politico ma anche a livello tecnologico, evidentemente. Certo, va detto fin da subito che io sono decisamente d'accordo con il movimento tunisino quando contesta questo appellativo della rivoluzione di Facebook o della rivoluzione di Twitter, perché come mi hanno raccontato tantissimi attivisti e militanti, utilizzare una frase del genere, un appellativo di questo tipo, significa dimenticare o voler dimenticare che invece questa rivoluzione è la rivoluzione della dignità, della libertà. E naturalmente, come dire, utilizzare Facebook e poi di fatto è una multinazionale, o Twitter, non è sicuramente l'aggettivo migliore. In questo, in Tunisia, sono veramente molto determinati a criticarlo e a contestarlo, è anche un po' come l'accezione della rivoluzione dei blogger, eccetera, eccetera. Sicuramente però va detto che la rete e le tecnologie della comunicazione sono stato un elemento determinante, specialmente per la possibilità della comunicazione tra le varie soggettività in lotta e anche tra le varie città. Ecco, per esempio tanti attivisti che ho intervistato hanno fatto riferimento ai grandi moti che ci furono a Gaza, che è una città poco vicina, di una regione vicinissima all'Algeria, dove c'era stata nel 2008 una rivolta incredibile, naturalmente repressa nella maniera più spietata e sanguinaria, e in quell'occasione il resto della Tunisia non fu quasi a conoscenza di quello che succedeva, ovvero internet ancora non era utilizzato, quantomeno non esprimeva questa energia comunque comunicativa che permetteva al resto della Tunisia di essere al corrente di quello che succedeva altrove. Quella rivolta fu soffocata nel sangue, soltanto pochissimi giornalisti, naturalmente il giornalismo indipendente, alcuni avvocati della Rete per i Diritti dell'Uomo riuscirono ad arrivare a testimoniare in qualche modo quello che stava succedendo, ma poco prima poi di essere rinchiusi in carcere i loro racconti arrivarono più all'estero che in Tunisia stesso. Va detto che comunque fin dai primi del 2000, ma addirittura anche negli anni 90, la cyberdissidenza in Tunisia aveva tentato di organizzarsi, c'erano già state diverse iniziative che avevano tentato in qualche modo di aggirare una censura veramente terribile che veniva definita Ammar 404 con il nome del ministro delle comunicazioni dell'epoca, e in qualche modo ecco, questa cultura comunque dell'informazione, dell'hackeraggio, di tentare attraverso internet proprio di rompere quella che era la censura del regime, era un qualcosa che nelle culture giovanili in Tunisia comunque era iniziato a svilupparsi. Detto questo, quando Sidi Bouzid insorge, come mi hanno raccontato tantissimi attivisti, forse la sfera della comunicazione, anche indipendente e antagonista tunisina, era matura al punto, perché poi nell'arco di neanche 5 minuti l'immagine di Mohamed Bouazizi in fiamme, o anche nei giorni successivi della spietata repressione della polizia di Ben Ali, fa il giro di tutta la Tunisia, e come con un effetto, se vogliamo, quasi da sciame, no? Moltiplicatore, ogni città incomincia, una volta vista quelle immagini, a scendere in piazza a reclamare giustizia. Ecco, e ogni volta che si scendeva in piazza la repressione aumentava e si diffondeva insieme alla rivolta, quindi non era più soltanto legata a Sidi Bouzid, e in quel contesto per esempio il lavoro di tanti media attivisti, che erano stati quei ragazzi che in un modo o nell'altro avevano organizzato la cyberdissidenza clandestina nel passato, si valorizza per la grande utilità che poi ha dato al movimento. Ecco, sicuramente Sidi Bouzid, mentre si rivoltava e scopriva che anche altre città della Tunisia erano in piazza al fianco di quella straordinaria città che si rivoltava contro Ben Ali, questo dava sicuramente coraggio e forza reciproca alle varie città. Un'altra cosa va detto, che rispetto anche alle altre rivolte, la comunicazione tramite internet è stata molto utile anche per, se vogliamo, scavalcare quelle che erano le burocrazie sindacali, perché in passato naturalmente anche la centrale sindacale dell'UGTT era al corrente di quello che succedeva a Gafsa, ma naturalmente per tutta una serie di interessi che c'era con il regime non aveva dato come dire, quella spinta necessaria per costruire una solidarietà alla rivolta dei minatori di Gaza. Tramite internet, tramite i forum, tramite Facebook e tramite Twitter invece tantissimi giovani proletari, cyberattivisti eccetera eccetera potevano anche discutere delle piattaforme politiche in maniera decisamente indipendente e poi entrare dentro la centrale sindacale del proprio quartiere, della propria città e porre, come dire, le cose come stavano e cercare di far prendere immediatamente una decisione solidale e degna al fianco di Sidi Bouzid. Volevo un po' riprendere la domanda che ti ha fatto Valerio, perché una cosa che emerge tantissimo nel libro, sin dalle prime, diciamo così, interviste, diciamo, tu inizi intervistando una delle prime interviste è un sindacalista, se non il primo addirittura, e diciamo che l'immagine, insomma, che l'Occidente ha voluto dare appunto delle rivolte in Tunisia e in Egitto eccetera è quello appunto rivolto ai social network eccetera, quando invece, questo penso anche perché comunque diffondere in Europa il fatto che ci fosse una rivolta a livello del libro, usa, insomma, gli attivisti usano delle parole ben precise, quali proletariato, quali proletari, e quindi quando, diciamo così, le masse più povere anche delle periferie, dei quartieri più poveri sono scese in piazza e si sono riappropriati di una piazza pubblica sia di confronto che di lotta, cosa che sotto Ben Ali non poteva, non, appunto, ricordiamo che sono iniziati con i minatori, eccetera, quindi gli operai. Tutte queste classi sociali, più insomma, classi che, di lavoratori piuttosto che quelle giovanili o più elevate, no? Di classe più elevate, quali possono essere quelli che seguono Facebook o Twitter, nel libro emerge tantissimo, e penso sia anche un po' il valore che hai voluto restituire a una rivoluzione che è apparsa e appare in Occidente appunto solo giovanilistica, diciamo così. Certo, ma la rivoluzione tunisina, il movimento rivoluzionario tunisino, come spiegano tantissimi militanti che ho intervistato, è stato ed è tuttora il risultato anche di un'accumulazione di saperi, di lotta, di una tradizione comunque di lotta e conflitto che in Tunisia si è data. Adesso si potrebbe anche tornare con gli anni molto indietro, ma negli anni 60 e 70 le organizzazioni rivoluzionarie che cercavano di organizzare la classe operaia, specialmente nelle zone della costa, ma anche per esempio con i minatori, sono state esperienze veramente molto importanti che sia il regime di Bourguiba che poi il regime di Ben Ali non è stato mai capace di reprimere e di colpire fino in fondo. Ecco, quindi specialmente per quanto riguarda la zona di Sidi Bouzid, di Gafsa e di Tunisi, la memoria delle lotte del passato sono state sicuramente molto importanti, proprio anche grazie ai militanti che, vivendo in clandestinità fino a neanche un anno fa, sono poi riusciti a trasmettere questi saperi e queste capacità a un proletariato giovanile che tramite internet, tramite naturalmente anche il proprio coraggio, specialmente maturato nelle curve degli stadi, perché la scena ultras di Tunisi per esempio è molto viva, è molto effervescente, ecco, quindi anche tramite il coraggio di mettere la fascia proprio in prima fila nei momenti di mobilitazione, poi si è andata a riprodurre quello che è stata la Casba 1, la Casba 2 e quello che è tuttora il movimento rivoluzionario tunisino. Spesso proprio tramite queste accezioni di rivoluzione dei blogger, rivoluzione di Facebook, rivoluzione di Twitter, sembra che si voglia espungere da invece la realtà materiale dei fatti, specialmente proprio la questione di classe, ecco. C'è stato un racconto che mi ha molto colpito di un ragazzo, che Karim, che era stato in Italia clandestino, si era fatto anni e anni di CIE tra l'altro, lui viene da un quartiere proletario della banlieue sud di Tunisi, che mi raccontava come nei momenti, se vogliamo, proprio quelli prossimi al 14 gennaio, quindi alla fuga di Ben Ali, la polizia aveva completamente blindato il suo quartiere, perché l'obiettivo era quello di non far arrivare i giovani proletari al centro della città per sfilare insieme alla società civile. Ecco, questa connessione qua era veramente vista dal regime come il grande terrore, perché poi di fatto questo è stato, quando i ragazzi delle banlieue sono riusciti ad unirsi con i sindacalisti, il movimento femminista, i professori e le professoresse organizzate nel sindacato, poi la potenza si è vista nel 14 gennaio, ma non solo, anche in tanti altri momenti di lotta come la prima e la seconda casa. Fulvio, proprio nel racconto, nella storia del ragazzo che citavi, c'è una cosa che mi ha colpito molto, perché appunto lui è stato 9 anni in Italia, di cui per un periodo è stato anche in UCIE, e lui dà proprio la misura di come quella che era la situazione politica in Tunisia precedente alla rivoluzione, precedente al movimento di cui parla il tuo libro, in realtà fosse solamente misconosciuta, misinterpretata da parte della società civile europea e soprattutto italiana, tant'è che racconta appunto nel tuo libro il fatto che dicendo non posso tornare in Tunisia perché c'è la dittatura, gli viene risposto, se non ricordo male, ma quale dittatura, dice il mare. Secondo te, anzi più che secondo te, ci spieghi un attimo quali sono stati gli elementi, se appunto di geopolitica oppure soltanto di censura interna, che hanno fatto sì che fino a quando c'è stata appunto l'esplosione del movimento in Tunisia si pensasse, almeno a livello di opinione diffusa, che la Tunisia fosse un paese del Maghreb quasi moderno, quasi normale? certo, va detto innanzitutto, cioè premetto che non sono sicuramente un fan di teorie complottiste, qua cito anche proprio documenti che ormai sono ormai di attualità, di uso comune, si possono leggere in tanti libri, anche su alcune inchieste giornalistiche. Comunque Ben Ali è stato un uomo di Craxi, insomma, del governo, dei governi italiani, è stato un uomo del governo Craxi che, vista la situazione in cui versava, la situazione mentale in cui versava Bourguiba, organizzò, naturalmente per perseguire i propri interessi, il colpo di Stato che portò Ben Ali al potere. Da quel infausto giorno fino ad arrivare allo scorso anno, il rapporto specialmente tra Italia e la Tunisia di Ben Ali è stato un rapporto molto stretto, di appoggio, che naturalmente era anche un appoggio strategico, di interesse strategico per l'Italia, per l'Unione Europea, ma anche per la NATO, per quello che è stata la cosiddetta lotta al terrorismo islamico, visto che comunque Ben Ali regalava la sua repressione alle democrazie europee, e in cambio le democrazie europee naturalmente garantivano a Ben Ali innanzitutto che l'immagine del suo regime fosse quella di un'immagine di un paese del Nord Africa ormai proiettato verso la democrazia, ma poi va anche detto che tutta una serie di accordi fatti tra Italia e Tunisia, e anche Francia e Tunisia, Belgio e Tunisia, hanno garantito al regime di Ben Ali di godere di milioni e milioni di euro e di dollari di finanziamento all'interno delle organizzazioni internazionali. La Tunisia, se si va a scorrere un po' tutti i documenti ufficiali degli ultimi 10 anni, figurava sempre come in prima fila quando c'era da raccattare dei gran quattrini, che poi il movimento rivoluzionario l'ha dimostrato benissimo, si è visto dove andavano a finire. Andavano a finire naturalmente negli interessi dei clan più o meno mafiosi, usiamo anche giù in Tunisia, usano questa parola, usano la parola mafia, dei clan mafiosi legati al regime, quindi sia della famiglia di Ben Ali e Traversi, e dall'altra parte schiacciare di povertà i ragazzi, le ragazze, gli uomini e le donne della Tunisia. Ecco, questa naturalmente questa era la verità, è la verità che tanti uomini e donne tunisini che vengono qua in Italia portano con sé, ma che sicuramente le autorità italiane non hanno mai voluto ascoltare. Credo che è emblematica la storia comunque di qualche giorno fa, che abbiamo letto sui giornali, in cui due ragazzi nordafricani erano stati imbavagliati con del nastro adesivo nero per essere deportati. Ecco, direi che questa è l'immagine più aderente al trattamento dell'Unione Europea rispetto alla verità dei migranti tunisini. Non a caso Karim alla fine dice: mi auguro che dopo questa rivoluzione finalmente anche l'Europa incomincia ad ascoltare un po' più i migranti. Ahimè, è una bella speranza, io sono un po' scettico, però sicuramente la storia che racconta Karim è una denuncia molto forte in questo senso. Senti Fulvio, diciamo che ovviamente, insomma, la rivoluzione dopo la cacciata di Ben Ali, un po' anche come in Egitto, non è che la situazione sia cambiata, non c'è stata questa rivoluzione, tra virgolette, insomma, tanto attesa. Però la popolazione tunisina continua a scendere in piazza. Ci puoi un po' anche brevemente raccontare attualmente com'è la piazza a Tunisi e nelle altre città, quali sono le mobilitazioni, cosa si sta continuando a muovere? Certo, la piazza tunisina è in continua agitazione, possiamo dire che c'è veramente un grande risveglio di auto-organizzazione popolare e proletaria. Faccio riferimento specialmente al coordinamento dei disoccupati, dei diplomati disoccupati, che conta decine di migliaia di ragazzi determinati a lottare per i propri diritti, ma poi naturalmente forme di organizzazione sindacale all'interno di alcune parti del mercato del mondo del lavoro, come i portuali, sempre i minatori di Gaffa, eccetera eccetera. Quindi si può dire che in questa fase, dal punto di vista della piazza, il movimento sta conquistando veramente con tutte le proprie energie possibile tutto lo spazio lo spazio pubblico possibile per portare avanti le proprie istanze. Quando si va giù e si ascoltano i slogan, si discute con i militanti, con i proletari delle banlieue, con gli operai, eccetera, eccetera, tutti sono convinti che non si è che all'inizio di quello che si deve fare, anche perché questo nuovo regime, che è nata dalla Costituente, dall'elezione della Costituente di quest'autunno, non convince proprio nessuno. Anzi, specialmente gli scontri durissimi, la repressione durissima che c'è stata contro alcune iniziative di lotta in queste ultime settimane, scusate, in queste ultime settimane hanno fatto dire a tanta gente, anche delle banlieue, che di questi islamisti che adesso sono al governo non ne vogliono sapere proprio più niente. Quindi delle volte anche questa, specialmente in Tunisia, no, quando si pensa al mondo dell'islamismo che si dice ben organizzato nei quartieri proletari e quant'altro, sembra comunque essere completamente smentito, anche perché la gente dei quartieri proletari stessi adesso si trova a fronteggiare la loro polizia, visto che adesso Ennahda, il movimento che si trova al governo in questi giorni, in questi mesi, si sta presentando come il movimento, il partito dell'ordine neoliberista e come unica soluzione ai tanti problemi economici la loro proposta di introdurre la zakat, che sarebbe l'elemosina sacra. Quindi pensiamo un po' a un movimento rivoluzionario che ha lasciato a terra tantissimi martiri, che ancora va avanti a lottare per conquistare pane, dignità, riappropriarsi dei propri tempi, dei propri spazi, se l'elemosina sacra può essere una sorta di soddisfazione. Ecco, direi proprio di no, e la piazza tunisina lo conferma. Ok Fulvio, noi ti ringraziamo per questo approfondimento ancora più interessante del libro, soprattutto per quanto riguarda questa parte finale. Ti congediamo, però prima di congedarti ti facciamo quella che è la domanda tradizionale per quanto riguarda Tabula Rasa, che come diciamo sempre è una trasmissione di lettori per lettori. E quindi tu cosa stai leggendo in questo periodo? Io in questo periodo sono andato su Pamuk, che è un autore turco che mi piace molto, ho preso un ultimo libro e sto proprio iniziando le prime pagine in questi giorni. Come si chiama il libro? Istanbul. Ah, Istanbul, l'ho letto, sì, è meraviglioso, quindi hai un ottimo libro per le mani. Va bene, io direi che non gli facciamo leggere niente a Fulvio perché sta al telefono, per cui niente, ti sei salvato, perché di solito facciamo anche leggere qualcosa dei propri libri, però vabbè, questa volta ti risparmiamo, noi ti lasciamo perché sappiamo che sei molto impegnato, per cui ti ringraziamo ancora per questo libro. Ricordiamo ancora Fulvio Massarelli, La collera della Casba, Voci di rivoluzione da Tunisi di Agenzia X. Grazie Fulvio, grazie. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Eccoci qua. Siamo dal vivo adesso. Siamo tornati, siamo qui. Non siamo infatti voci registrate. Abbiamo ascoltato l'intervista fatta telefonicamente, collegamento da Bologna, mi sembra, no? Con sì. Fulvio Massarelli, autore della Colla della Casba, Voci di rivoluzione da Tunisi, pubblicato, come dicevamo prima, da Agenzia X. Una bella intervista. Sul finire dell'intervista tu mi hai fatto notare che dicevo grazie per questo, cioè, sembra che il libro non ti è piaciuto, che lui era approfondimento ancora più interessante del libro. Vabbè, 10 lode in questo senso, ovviamente. Diciamo che il libro mi è piaciuto, anche perché sono una serie di interviste di personaggi, lui sceglie questi personaggi molto bene, raccontano insomma dal tifoso al rapper alle femministe ai sindacalisti, insomma un po' tutte le classi sociali che in qualche maniera sono state partecipi di questi ultimi tumulti e rivolte tunisine. E poi tra i vari pregi a quello di non utilizzare come argomento chiave, come l'ente di lettura di quella rivoluzione, le due cose che invece normalmente i media mainstream utilizzano, vale a dire il social network e l'Islam. Invece si parla di lotta di classe. Esatto. Anche in Tunisia, perché se rivolte si vede che la lotta di classe non ci sta mai. Va bene, passiamo al fumetto invece, passiamo dalla Tunisia, rimaniamo però nel Mediterraneo, perché passiamo a Bari. In questo fumetto, ultimamente vedo che stai... Io non avevo mai presentato fumetti, da quando faccio la trasmissione con te, praticamente presentiamo quasi sempre fumetti. Guarda, devo... mi obblighi a leggerli, cosa che io non faccio quasi mai. Allora, io non sono un gran lettore di fumetti, diciamo che ho imparato a leggere un certo tipo di fumetti grazie a quell'altro, grazie a Bizio che conduce l'altro lunedì, perché lui ovviamente avendo poco tempo ma guarda, ho capito questa cosa, in realtà io fumetti ogni tanto sì, mi è capitato, non sono proprio un cultore, ma non perché non mi piacciono, ma mi sono sempre trovato meglio nella letteratura scritta. In realtà i fumetti sono alcuni fumetti, insomma, sono assolutamente letteratura, però da quando faccio Tabula Rasa, vale a dire da un anno a questa parte, il discorso è che con un fumetto la sfaghi, nel senso, soprattutto quando è bello, come per esempio questo che presentiamo stasera, Fratelli di Alessandro Tota, che andremo a sentire tra poco. Alla fine comunque ti arricchisci tra virgolette e sicuramente poi fai in tempo a comprarlo martedì come ho fatto io, leggerlo, passarlo a Cristina leggerlo e presentarlo lunedì, per cui il fumetto si adatta. Va bene, andremo a presentare quindi fra poco questo Fratelli, un fumetto ambientato a Bari. La domanda che faremo sono proprio gli anni in cui è presentato e racconta questo fumetto, ma sicuramente lui ha la nostra età, perché racconta una generazione, una modalità di vita da muretto e via dicendo, insomma, in cui anche in questo fumetto ci siamo un po' ritrovati. Per cui vi mandiamo un secondo di musica per andarci a collegare con Parigi, con Tota, giusto? Alessandro Tota, Alessandro sì, Tota. Fra poco. The simple expression of the complex thought. We are for the large shape because it has the impact of the unequivocal. We are for flat forms because they destroy illusion and reveal truth. The artists were attempting to make art more than just something to look at. They wanted it to be something to be involved in. Something too big to ignore. It is our function as artists to make the spectator see the world our way, not his way. Simple expression of the complex thought. We are for the large shape because it has the impact of the unequivocal. E quindi 87.9, andiamo a sfumare questo tormentone, le tigre, sì. Slashot at Free University, per collegarci telefonicamente con Alessandro. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao Alessandro. Ciao a tutti, buonasera. Allora, iniziamo, insomma, abbiamo letto con molto piacere e interesse. Piacere e interesse. Questo fumetto si chiama Fratelli, insomma, neanche troppo piccolo, comunque una storia ben articolata, tante tavole. E vabbè, prima di entrare proprio nel merito della domanda clou, dici un po' come è nato questo fumetto, come tu, abbiamo visto, insomma, che non fai solo fumetti, non sei solo un disegnatore. No, sì, cos'altro? Abbiamo visto che canti pure. Abbiamo visto che canti, infatti. Ah, che canto! Che canti, sì. No, ma quello è giusto per fare curriculum, per darmi delle arie da artista multimediale. D'altronde, chi di noi non ha cantato una volta nella vita, insomma? Sì, sotto la doccia canto. Dici no, un po'. Fratelli, nasce dal... Insomma, una piccola premessa, io sono di Bari, ecco, sono nato a Bari, sono cresciuto a Bari e poi sono andato via a 18 anni, sono andato a stare a Bologna e poi sono venuto a vivere in Francia dove vivo adesso. E con la distanza, probabilmente, col fatto di vivere lontano, mi è venuto il desiderio, insomma, di raccontare quelli che erano stati un po'... Non le circostanze, i luoghi o un certo tipo di persone che c'erano a Bari alla fine degli anni 90, che quando io avevo quindi 16-17 anni, ecco, quel periodo lì. Quindi ho cominciato a lavorare su questo materiale per creare delle storie in cui, insomma, da una parte si raccontasse la vicenda appunto dei due fratelli, da cui viene il titolo del libro, che sono due fratelli un po' spiantati che hanno dissipato l'eredità paterna, e dall'altro lato volevo proprio fare una sorta di paesaggio, cioè volevo un attimo mostrare come era Bari in quel periodo, come erano alcuni ambienti della città, ambienti legati alla piccola criminalità, al consumo di droga, alla vendita di droga, perché mi sono reso conto che nel giro di pochissimi anni quel tipo di realtà è già scomparsa, praticamente non c'è già più quel mondo, siamo già entrati in un'altra fase con... altre sostanze innanzitutto per quanto riguarda il consumo di stupefacenti, però proprio con una fauna diversa, cioè i ragazzi non sono più come erano 10 anni fa, quindi preso da un attacco di nostalgia o non so che, ho deciso di fare questo libro. Tra l'altro, oltre, appunto, il titolo è assolutamente emblematico perché si chiama Fratelli e infatti la prima storia che poi viene ripresa dopo un intermezzo è quella di questi due fratelli spiantati che dissanguano tutta l'eredità paterna fino poi a vendere un quarro di Schifano che gli verrà rubato, ma poi, insomma, chi ci ascolta comprerà il fumetto, quindi non vado oltre, però è anche una storia di Gattuso, di Schifano. E, però dicevo, appunto, oltre che a parlare di questi due fratelli, la parola fratelli ricorre, almeno così a me è sembrato, perché sicuramente tu hai fatto un quarro di Bari, ma è anche un uno degli argomenti mi sembra che sia la fratellanza diffusamente intesa, intendendo per fratellanza quella dinamica di rapporti che ci sono, per cui c'è affetto ma c'è anche rabbia, c'è la vicinanza, la lontananza, un sentirsi legati che però spesso è conflittuale. Non so se è stata solo una mia impressione o se tu avevi anche intenzione di raccontare, appunto, lo stare dentro a un gruppo come una fratellanza, appunto. No, hai perfettamente ragione. Questa cosa dei fratelli e della fratellanza, appunto, è nata dal fatto che, tornando con la memoria al tipo di amicizie che avevo da proprio quando ero, insomma, ragazzo, 17, appunto, quell'età molto particolare che è dei 16 e 18 anni, è un periodo in cui si ha, avendo molto tempo a disposizione, non lavorando, insomma, per quello, sì. Comunque la scuola non prende poi così tanto tempo, soprattutto se non ci vai mai come facevo io. Essendo un periodo di scoperte, è facile legarsi a dei compagni di viaggio, insomma, in qualche modo, a dei compagni di scoperta, con i quali si instaura un rapporto che è molto forte. E credo di non essere stato il solo che negli anni dell'adolescenza ha vissuto delle amicizie molto molto forti, che sfioravano veramente un legame che era a metà tra il rapporto di coppia e un po' il rapporto familiare, insomma, quel tipo di sentimento che si ha quando stai tutto il giorno con una persona, un amico tuo, stai sempre per strada, quel tipo di situazione lì, con i pro e anche i contro che ha questo, certo, questo tipo di rapporto, perché spesso le persone con cui ti leghi, essendo diverse da te, ti portano in contesti e in situazioni che magari sono pericolose, magari sono lontane dal tuo mondo di appartenenza, dal tuo mondo di origine. Per cui, come posso dire, si aprono infinite vie seguendo questo tipo di rapporti. A me interessava esattamente questo. Diciamo, il fatto che sia contenuto una certa quantità di pericolo anche di una cosa bella come un'amicizia intensa. Ecco, diciamo che questo è una delle cose che mi interessavano. Senti, infatti, forse non so solo il titolo, ma il libro è praticamente sono tutti maschi, quindi comitivi adolescenziali maschili, l'unica figura femminile è la mamma. Questo perché quando si è adolescenti, immagino, insomma, per i ragazzi, così si sta in gruppo tra ragazzi, ancora non si è scoperto la parte femminile e... o una scelta, insomma, una difficoltà, come mai? Ma guarda, è un fatto, io sono, nonostante, adesso, biograficamente io ho avuto amiche ragazze anche a quell'età, io quando dicevo avevo delle amiche molto care che erano delle ragazze, però mi interessava concentrarmi proprio sul cameratismo, quasi, su questa cosa maschile, propriamente maschile, che si ha, anche, e poi un'altra cosa, ho volutamente tagliato la parte femminile del mondo, si vedono pochissime ragazze proprio, sì, anche sì, nel libro, sì, appaiono infatti di sfuggita, c'è una scena nella seconda parte del libro in cui appaiono, ma perché volevo in qualche modo che l'elemento, nella seconda parte del libro c'è la questione della droga che prende molto spazio, volevo che in qualche modo l'affetto si risolvesse tutto sull'amicizia, che non sembrasse diluito nei rapporti con l'altro sesso e che in qualche modo si vedesse, fossero solamente due campane che suonassero, detto, quella del consumo degli stupefacenti, che poi in realtà è più ricerca degli stupefacenti nel libro, perché non si vede mai, anzi, no, infatti, quando consumano. E poi quindi c'è l'amicizia da un lato e poi c'è la droga dall'altro. Volevo che si muovessero tra questi due elementi, e infatti ho tagliato al minimo anche la famiglia, si vede molto poco la famiglia nella seconda parte del libro, proprio perché volevo evitare soprattutto quel tipo di effetto che c'è in alcuni film, in cui si fa della psicologia un po' facile mostrando la famiglia e poi lo spettatore, il lettore nel mio caso, trae la conclusione che se il protagonista si comporta in un certo modo, si droga, è autodistruttivo, queste cose così, è perché nella famiglia succede questo e quest'altro, è perché la ragazza l'ha lasciato, è perché... Quindi ho voluto evitare tutte queste cose qui, concentrandomi sui due elementi, insomma. Senti Alessandro, tu appunto parlavi di questa ricerca ossessiva di stupefacenti che poi fa da collante del gruppo di cui parli, tra l'altro questa è una cosa che credo che ognuno di noi, almeno parlo per me, nella sua adolescenza in un modo o nell'altro l'ha vissuta, però appunto stavi citando il fatto che il consumo di droga, soprattutto il consumo dell'eroina, non viene, tu non lo mostri mai, è sempre quasi come il rapporto con i genitori, quello è proprio quasi semi nascosto. L'eroina come consumo, come viene vista o come ricerca, come aspirazione di chi ancora non l'ha provata, oppure le conseguenze, c'è una scena di un tossico che ha un'infezione al braccio, però non c'è mai il consumo, non c'è mai l'atto, non viene mai vista presentata la siringa e così via. Evidentemente è una scelta, qual è il ragionamento che hai fatto su questa cosa? Guarda, questo è stato uno dei punti di maggiore riflessione nella sceneggiatura del libro, perché c'è una grande tradizione nella rappresentazione degli stupefacenti, in letteratura, al cinema, e nel fumetto ce n'è meno, però in Italia c'è un grandissimo esempio che è Pazienza con Pompeo. Certo. Adesso, le possibilità erano due, fondamentalmente. O potevo prendere di petto la questione, quindi fare un discorso alla Trainspotting, per dire, cioè mostrare questi che si fumano l'eroina nel loro caso, perché sono proprio all'inizio del loro consumo. Oppure, quindi questa era una scelta che mi sembrava però... Non ero certo di poter ottenere il massimo da questo tipo di rappresentazione. Allora ho optato per la scelta che era all'opposto, cioè non mostrare e facendo affidamento sul fatto che ormai nell'immaginario comune, anche di chi è lontanissimo dal mondo degli stupefacenti, si sa che cos'è la droga. adesso dopo 30 anni, voglio dire, dall'esplosione del fenomeno dell'eroina in Italia, chiunque sa che l'eroina fa male, che se ci fai le pere muori, cioè ti prendi le malattie e muori, non è ci vuole chissà quale vita, certo, avventurosa per saperlo. Io facendo appiglio su questa cosa qui, cerco di creare una situazione di angoscia per le sorti dei protagonisti. Cioè noi vediamo che i protagonisti vanno, quasi ridendo e scherzando, insomma, a mettersi in una situazione di cui poi il lettore sa quelle che saranno le conseguenze, ma di cui i ragazzi, i protagonisti, sembrano ignorarlo. Quindi in qualche modo è come sai quando mostri un personaggio per esempio su una zattera in alto mare, che guarda in camera ed è soddisfatto, contento della sua zattera, e non si rende conto che fuori all'orizzonte più lontano sta arrivando un temporale. Lo spettatore lo vede, ma il personaggio no. Cercavo di creare questo tipo di situazione, di effetto. Ed Euristica è riuscito, perché c'è la scena in cui il cugino dei fratelli, mi sembra, parlando con un amico, dice: possiamo fare un accrocchio, qualcosa del genere, comunque una colletta per prendere l'eroina. È contento, è gioioso, è soddisfatto, perché è un'esperienza che l'aspetta, e il tuo effetto, almeno con me, è riuscito. Credo di essere un lettore tipo da questo punto di vista, perché in me è salita anche, come dire, la preoccupazione data dal fatto di sapere qual è poi il percorso, il cammino dell'eroina. Quindi, come dire, sì, è assolutamente riuscito. A proposito dell'ambientazione di Fratelli, leggevo, preparando l'intervista di stasera, su internet che in teoria Fratelli dovrebbe essere il primo di una trilogia su Bari. Sì. Allora, il secondo ho incominciato a lavorarci e poi adesso sono stato rapito da un altro progetto per cui ho dovuto parcheggiare un attimo il libro, ma il secondo sarà insomma, se va bene, lo riesco a realizzare in tempi rapidi, quindi no, e non cambiando idea mille volte come sempre. Vorrei fare un libro più ampio su quel gruppo, e soprattutto concentrarmi su Gattuso, che è un personaggio che appare nella seconda parte di Fratelli. Sì, il ragazzo con i capelli lunghi, giusto? Sì, esatto, il ragazzo con i capelli lunghi, sì. E questo è un personaggio, ma insomma è ispirato, voglio dire, è un po' zanardiano, giusto? C'è un che di zanardiano, un po' zanardi di pazienza, almeno a me così è sembrato, però poi insomma lo sai meglio te. Ha un grosso naso, sì, ma inevitabilmente, sai, quando devo fare un personaggio con un grosso naso, fisicamente biondo, slanciato, così immagino che possa venire fuori, ecco. Pazienza, anche se poi psicologicamente e fisicamente alla fine il mio personaggio è abbastanza diverso. E volevo lavorare su di lui, ma volevo, sai, Fratelli non è esattamente un romanzo, Fratelli, cioè Fratelli è fatto sulle strutture del racconto. Sono due racconti che si incrociano, in cui c'è un filo conduttore, però non utilizzo la struttura del romanzo, non ha il respiro del romanzo, comunque c'è un tempo abbastanza ridotto nel quale segui i protagonisti. Invece io vorrei provare a fare adesso come fanno, non so, come fanno gli americani, ecco, che non si vergognano a usare la loro provincia per fare qualcosa di più ampio respiro, e come di recente è stato fatto da alcuni italiani, tra cui, per dire, proprio di uno scrittore barese, l'ha fatto Nicola Lagioia, Riportando tutti a casa. Sì. Vorrei provare a fare una struttura più simile a quella del romanzo classico, con gli stessi personaggi, seguendoli in un ampio in un momento, insomma, in una fase della loro vita più ampia, e concentrandomi appunto su Gattuso come perno della vicenda. E sì, ci sarà molto lavoro, spero di finire. Senti, a proposito di lavoro, sempre grazie a internet, ho visto che forse questo è il progetto che ti ha distolto dalla continuazione di Fratelli. C'è un progetto che mi sembra, da quello che ho capito, iper ambizioso, che addirittura si svolge in America. Sì, guarda, ho fatto 20 pagine di questo libro, che le ho fatte praticamente così, no, a cuor leggero. Cioè, adesso faccio un po' di pagine di questo libro, ne ho fatte una ventina per una rivista francese che mi avevano chiesto un contributo. Sì, è un romanzo storico, ma fa ridere anche dirlo, voglio dire. È una cosa sulla nascita del comic book. praticamente racconto due disegnatori, ecco, degli anni 30, e li seguo fino, diciamo, alla fine del McCarthyismo. Questo è il progetto iniziale. È un po' sulla falsa riga del libro di Chabon, Le avventure di Cavalier and Clay, che è un bellissimo, esatto, romanzo. Sì, infatti mi ricordava proprio quel libro là, tra l'altro molto bello. Ah, meraviglioso, un libro meraviglioso, sì. Mi ha fulminato. Infatti è stato proprio, sai, molto spesso è l'emulazione che ti porta a fare le cose. Tu leggi una cosa bella fatta in un certo modo, in una certa, che racconta in una certa epoca, e vuoi provare anche tu. Solo che mentre facevo questa cosa qui, mi sono accorto che i motivi per cui raccontavo questa storia andavano al di là della professione dei protagonisti. Quindi nelle mie intenzioni, ecco, sarà un libro fatto con uno stile più semplice, da un punto di vista del disegno, mm-hmm, per concentrarmi molto sul dialogo, e non c'è tanto immaginarsi un film storico, quindi grandi scene di strada o queste cose qui alla C'era una volta in America. Vorrei lavorare quasi con gli strumenti del teatro, quindi fare degli sfondi semplici. Delle quinte, sì. Degli sfondi. Qualcosa che evochi soprattutto. Anche perché dovendo raccontare così tanti anni di storia d'America, senza essere... E poi la cosa che mi intriga è che io non sono mai stato in America. Ah, fantastica questa cosa. Me la devo inventare, sarà veramente scoperto il gioco dell'America, di un'America completamente sognata. Non c'è... naturalmente ho già letto tantissimo, e non pensare che mi stia a caschi dalle nuvole per quanto riguarda il sistema del fumetto di quegli anni, cioè mi sono informato, sto studiando diverse cose, da come si facevano i contratti al tipo di condizioni di lavoro negli studios, insomma di tutto, perché c'è comunque molta, molta, molta storia è stata scritta, è un periodo molto, molto ben documentato. Così è un progetto molto ambizioso, sinceramente non per dirti, ecco, in termini concreti non ho ancora firmato il contratto con il mio editore, perché gli ho detto che mi serve del tempo per essere sicuro che non sia un fuoco di paglia. Comunque, cioè, ti metti a fare un romanzo di 200 pagine sull'America così, ecco, stavo per chiederti proprio quando sarebbe uscito, però appunto, quindi ci dici che non insomma hai bisogno di tempo, evidentemente. Sì, bisogna arrivare almeno, guarda, adesso sono 20 pagine, devo arrivare a pagina 50, devo farle leggere a una serie di persone con cui lavoro normalmente, devo vedere un attimo in cosa mi sto andando a ficcare, ecco, con un po' di lucidità prima di parlare, di uscire. Sai quante cose si buttano purtroppo quando scrivi? È normale, voglio dire, che un progetto non va in porto, ci sta tutto, quindi io non, insomma, adesso ci lavoro su, ma è ancora presto per dire, ecco, qualunque cosa. Senti Alessandro, stiamo ormai giungendo al termine di questa trasmissione. Prima di chiudere ti volevamo chiedere la domanda che facciamo un po' a tutti i nostri scrittori e scrittrici: cosa leggi? Cosa stai leggendo? Cosa sto leggendo? Oddio, adesso sto leggendo un libro che è assolutamente inusuale per le mie letture. Dopo aver letto Dan Fante, che appena ho pubblicato in Francia almeno, un libro sulla storia del padre, sulla sua vita e sulla vita di John Fante, mm-hmm, Ho preso in mano un libro che per pregiudizio non ho più riletto dal liceo, che è Siddhartha di Hermann Hesse. Oh, mamma mia. Un cult dell'adolescenza. Sta in tema con fratelli, comunque. No, ma guarda, sai che cosa? Ho scoperto che c'è un pregiudizio talmente diffuso su che Siddhartha. Tutti erano d'accordo con me nel mio pregiudizio contro Siddhartha. Tutti dicevamo che sarà una fesseria così. Quando si è d'accordo con troppa gente, è meglio dubitare di quello che si sta pensando. Allora mi sento, mo me lo rileggo. Poi è un libro ad Elfi, fa sempre piacere tenerlo in mano, fa sempre così, Quindi me lo sono riletto, ma sai che mi piace? talmente tanto... Io l'ho letto, Siddhartha, io pure l'ho devo letto. Dire, che quando ero... E ho la stessa sensazione che diceva Alessandro, nel senso che è una cosa che fai perché, come dire, è in accordo all'età anagrafica di quei tempi, poi diventa quasi un errore di gioventù, ma dopo un po' lo rimpiangi, cioè bene o male ti segna comunque il fatto di averlo anche letto. Anche se penso che molti libri che leggiamo in gioventù in realtà li dovremmo leggere più in età matura, perché penso anche soprattutto Siddhartha, che da adolescente non lo so se l'ho apprezzato quanto, forse lo dovrei rileggere pure io, chissà. Va bene, senti Alessandro, noi ti salutiamo, ti ringraziamo di questa... Ma lo stai leggendo in italiano o in francese? Questo tanto per curiosità. No, lo sto leggendo in italiano. In italiano. Però leggi in francese, ovviamente. Sì, leggo... In genere, guarda, funziona così, gli scrittori i saggi li leggo in inglese, i romanzi americani li leggo in italiano, i libri francesi in francese. Complimenti. Senti, ti ringraziamo tantissimo, è stato un piacere. Alessandro Tota, fratelli della Fandango. E ci sentiremo a questo punto, sì, quando uscirà qualcosa. Questo fumetto di cui, uno dei fumetti che appunto stai preparando, perché lavori in contemporanea su più progetti, così ci dicevi. Noi ti ringraziamo, grazie mille per la disponibilità e a presto. Ciao Alessandro. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Buona serata. Ciao. Ciao. Ciao. E niente, noi dobbiamo proprio chiudere, sono le 22.04 minuti. Quasi primi. Un peccato, ci sono volte come questa. Lo so, t'ho visto che eri molto preso. Perché, vabbè, diavolo, come dire, ho capito chi fa media col mio fancazzismo, io non faccio niente. E ci sta Alessandro Tota che fa più progetti, così almeno sono più tranquillo, c'è cioè qualcuno che mi equilibra, mi tiene in media quantomeno. Sono le 22.04. Senti, abbiamo... prima di chiudere però io volevo ricordare due, certo, cose. Una, no, che è uscito un quaderno, i quaderni di Onderos, e Onderos è diventata anche casa editrice in quest'ultimo periodo, per cui il primo di questi quaderni di Onda Rossa, tutto proprio, insomma, molto Onda Rossa, e questo si paga, si chiama Non Pago, cronaca della resistenza sociale al debito greco. E insomma, non so, poi casomai più in là lo presenteremo, la radio già l'ha presentato, e parleremo anche di questa collana, che appunto il primo è proprio sulla Grecia. E poi insomma, invece nell'arco delle prossime giornate, in particolare tra domani e dopodomani, andremo a scoprire nella città di Roma questa raccolta di tutte quelle che sono state le locandine, piuttosto che gli iscritti del Centro Sociale Pirateria, che è stato recentemente sgomberato, quindi dal 93 al 2011. Questo libro che è già uscito di questa raccolta, andremo casomai a presentare, volendo anche questo. E come no, come no. E noi detto questo, noi chiudiamo, perché dopo di noi ormai c'è una trasmissione, per cui dobbiamo chiudere. Che ci blinda da un punto di vista orario. Vediamo appuntamento con Tabula Rasa per la prossima settimana con un'altra voce e altri libri, altre storie. Con noi appuntamento in teoria dovrebbe essere tra due settimane, ma comunque insomma qualcosa. Così, io ho iniziato a lavorare lunedì, non so, capiremo. Capiremo, abbiamo sempre qualcosa che ci ostacola, ma noi ci saremo, ci saremo. Buona serata a tutti e a tutte. Ciao ciao, ciao.